piuttosto lunga, però apprezzerete quello che io vi dico. E per cominciare io nuovamente vi ringrazio per avermi invitato, perché sono molto felice di essere tra voi e di vedere i vostri bei visini giovani. E intanto cominciamo. Parliamo un poco di Firenze, un poco, perché il tempo a disposizione non è tanto, e per parlare di questa città ce ne vorrebbe. Firenze, la città dei fiori. Ricordo che una volta una signora francese mi disse di essere rimasta delusa perché credeva che questa città fosse sommersa dai fiori, che questi spuntassero sui marciapiedi, traboccassero da balconi, decorassero le piazze e le vie. No, qui non si vedono più fiori che nelle altre città, ma un fiore è lo stemma fiorentino. Le antiche feste erano per lo più dedicate alla stagione fiorita e fiori sono i monumenti, i campanili, le torri. Di giardini privati ve ne sono molti, nascosti sul dietro delle case, nei vicoli più angusti, ed io ricordo che nella mia infanzia anche i giardini pubblici erano molto ben tenuti, le aiuole decorate da mosaici floreali, mentre invece ora vi è un aspetto desolante di incuria ed abbandono. Molti nomi di strade hanno qui nome di fiori o di piante, ed ecco come nel volume Firenze Viva di mio padre è scritto Fiorenza, fiorino. Anche la sua moneta fioriva. Vi era un giglio sul suo verso, vi era il battista nel suo retro. Due simboli, due fiori. L'operosità del popolo lavoratore, la divinità del pensiero. Vi sbocciavano la poesia e la lingua. Tutte le feste fiorentine erano una glorificazione dei fiori. Dante incontrò Beatrice Fanciulla nell'orto dei Portinari. Botticelli dipinse la sua primavera in un trionfo dei fiori. L'angelico dipingeva i suoi santi, i suoi angeli, il suo paradiso in un'aiola fiorita. Tutti i quadri della prima rinascita hanno motivi floreali. I campanili e le torri sono steli di giglio. La cupola del Brunelleschi è un grande boccio turgido. La signoria Medicea si circondò di giardini tra i più splendidi del mondo. Non si saprebbe dire se in essi fiorirono più le piante e le aiuole o i miracoli delle statue e delle fontane di marmo. Il più grande tempio di Firenze si intitola Santa Maria del Fiore. Di quale fiore? Non ve n'è alcuno specificato, ma si intende che è il fiore di Fiorenza, il fiore della città che sboccia sotto il più fiorito dei cieli. E tante altre chiese cittadine prendono un nome agreste e augurale: Santa Maria in Campo, San Michele in Orto, San Salvatore al Monte, Santa Lucia sul Prato, Santa Maria di Verzaria. E molte vie cittadine che furono e rimangono: via del Mandorlo, via del Melarancio, via dell'Alloro, via del Gelsomino, via Rosa, via dell'Ulivo, e si potrebbe continuare. Così Luigi Ugolini nel suo Firenze Viva. Ora parlo io. La madre di Firenze fu Fiesole. Piccola madre di sì grande figlia, ebbe a dire Dante, la Fiesole Etrusca, che da una delle colline più leggiadre che siano al mondo guarda la valle dell'Arno che si adagia verde e dolcissima ai piedi dei colli. Firenze allora non esisteva. Alcune leggende ci dicono che sulla sponda sinistra del fiume abitavano gruppi di uomini che lì avevano le loro merci e i loro magazzini. A poco i gruppi si sarebbero infoltiti, creando così quella città destinata a divenire un faro famoso nel mondo. Dopo che i romani ebbero espugnato Fiesole, Silla, nell'81 a.C., ne fece una colonia romana e la città ebbe a subire da parte delle invasioni barbariche saccheggi, violenze, dominazioni. Sembra quasi impossibile che in questi colli sereni, dove regna l'ulivo, simbolo di pace, possano essere avvenute durante i secoli stragi e persecuzioni. Nella lotta tra Goti e Bizantini la piccola città fu ridotta in rovina e solo con la venuta di re Carlo Magno ritrovò vita e prosperità. Se vi trovate in Borgo Sant'Apostoli, una strada che unisce Por Santa Maria con via Tornabuoni, vi è una piccola piazzetta chiamata del Limbo, dove c'è una piccola chiesa dove dicono sia stato Carlo Magno. Non si può dire che Firenze sia stata una città dove regnava la pace, purtroppo questa è storia. Da qui è passata tutta la storia romana, medievale e moderna. Le discordie per secoli dilaniarono questa terra perché purtroppo le discordie interne non mancarono. Grande popolo questo, ma ahimè, anche fazioso e combattivo. Tra famiglia e famiglia, tra città e città, sorsero rivalità che turbarono la quiete pubblica. Guelfi e Ghibellini combatterono per affermare la loro priorità, appoggiandosi anche a principi stranieri e dimenticando troppo spesso la parola amore e fraternità, condussero guerre fratricide. Dopo la morte di Federico II, che appoggiava il partito ghibellino, i Guelfi, che erano stati cacciati, ritornarono per instaurare un regime democratico, conservando al podestà l'amministrazione della giustizia, e affidarono il governo a 12 anziani che ogni anno dovevano essere rinnovati. Firenze conobbe così un periodo di pace, ma ricadde poi in lunghi periodi di lotte. Il partito dei Guelfi si divise in bianchi e in neri, i quali esiliarono molti cittadini di parte avversa, tra i quali il loro più illustre figlio, Dante Alighieri, il quale dovette peregrinare per la penisola, conoscere l'umiliazione dell'esilio, sognare per tutto il resto della sua vita il bello vile, la diletta patria che per lui si tramutò nella peggiore delle matrigne e che non dovette mai più rivedere. Dante, il più grande dei poeti italiani e del mondo, tutto qui parla di lui, la sua ombra sdegnosa ci guarda da ogni lato della città e Firenze ha su di sé l'onta di non aver compreso questo suo grande figlio, colui che nobilitò la nostra lingua, colui al di cui nome tutti si inchinano reverenti, ma che non trovò qui né amore né considerazione. Io non sono tra voi per parlare di lotte e di rancori, ma per dirvi della mia città, per rendere un modesto omaggio alla grande arte che l'illuminò, dell'ingegnosità dei suoi artigiani e dei suoi cittadini laboriosi. Gli artigiani furono e sono ancora una delle colonne della civiltà fiorentina. Il governo della Repubblica era basato sulle corporazioni delle arti. Le arti erano tutto in Firenze. Erano arbitre di ricchezza, della giustizia, della politica, della pace e della guerra. Ogni fiorentino doveva essere artigiano o perlomeno essere iscritto sul libro delle arti, maggiori o minori che fossero. Perfino Dante, non essendoci allora un sindacato degli scrittori, dovette iscriversi a quello degli speziali o farmacisti. Allora non esistevano fabbriche né stabilimenti, tutto si svolgeva nelle botteghe o nei fondachi, che erano magazzini dove si vendeva di tutto. Però la giustizia non era come sempre ben amministrata. Uno scardassiere di lana, Michele di Lando, si mise alla testa dei ciompi, una categoria alla quale appartenevano i più umili lavoratori, si schierò con i capitani di parte guelfa, i quali si impadronirono del palazzo della signoria, vi si insediarono, fecero gonfaloniere Michele di Lando e la bandiera gigliata di Lando il ciompo sventolò sulla torre. Si chiedeva e si ottenne che alle sette arti maggiori, e cioè notai, cambisti, speziali, pellicciai, eccetera, e alle 14 minori fossero aggiunte altre categorie, e cioè tintori, farsettai, fabbri, eccetera. Ogni mestiere aveva la sua bandiera e il suo stemma. Questo lo potete vedere in Piazza della Signoria, al Palazzo Vecchio, proprio sotto le mensole, Sotto ogni mensola c'è uno stemma delle corporazioni fiorentine. Dunque, gli artigiani si proclamarono popolo di Dio e vollero un giusto riconoscimento, però le lotte non diminuirono. I ciompi furono sconfitti dalle milizie cittadine e perdettero ogni autorità. Come ho detto, le arti erano maggiori e minori. Nelle minori c'erano i fabbri, i macellai, i lanaioli, insomma tutti i mestieri erano rappresentati. Ma anche tra lotte e rancori la città cresceva e dava i suoi frutti. Le tessiture preziose, le opere di artigianato varcavano i mari ed il nome di Firenze correva di paese in paese e voleva dire buon gusto, arte, lavoro finissimo. Gli artigiani che lavoravano nella quiete dei loro fondachi non pensavano allora di lavorare per la futura grandezza della loro città. Gente semplice che rispondeva anche a nomi di Donatello, il Ghiberti, il Ghirlandaio, Giotto, Arnolfo, Michelozzo, il Cronaca, il Brunelleschi, il Botticelli, il Cerlini, Leonardo, Michelangelo e tanti altri. Questo era il grande artigianato di Firenze, l'aristocrazia dell'ingegno, quell'ingegno che Dio ha donato ai suoi figli. Gente che creava e tirava su palazzi, torri e campanili, che creava un'architettura che ne rispecchiava il carattere, un carattere asciutto e rude, che costruiva quei palazzi che non avevano bisogno né di orpelli, né di pinnacoli o fronzoli. Tutto si basava sull'armonia delle linee. Osservate Palazzo Strozzi, Palazzo Vecchio, Palazzo Medici. Osservate ogni antico palagio e vedrete che la bellezza è basata soltanto sull'armoniosità delle linee. Una geometria perfetta dove non v'è niente di troppo, niente di poco. A volte basta il davanzale di una finestra o l'armonia di una porta per creare bellezza. L'essenziale basta, ma quale essenziale? Firenze conobbe il suo massimo splendore sotto il regno della famiglia Medici. Ho detto regno, ma i primi Medici non ebbero neppure titoli nobiliari. Giovanni di Bicci si può dire che fu il primo dei Medici mecenati, padre di quel Cosimo Pater Patriae che insegnò ai figli come si doveva reggere una città. Fu Giovanni ad ordinare ai Brunelleschi la sagrestia della chiesa di San Lorenzo, che doveva essere il luogo del riposo eterno per i componenti della grande famiglia. Sotto Lorenzo de' Medici, il Magnifico, la città conobbe uno splendore che non fu più eguagliato, neppure sotto il primo Granduca Cosimo I. Lorenzo de' Medici, il Magnifico, come vollero chiamarlo i contemporanei. Una voce che giunge a noi da un tempo lontano e che ci riporta a quel secolo splendido che fu il 400. Una voce che allora si levava per unirsi a quelle della natura che formavano il grande concerto terreno, concerto che oggi si è mutato in un fracasso assordante che annulla l'armonia dei vari suoni naturali. Tra i grandi che dettero alla città del Giglio onore e fama si erge questo vivido sole che portava in sé tutta la ricchezza della quale è permeata l'anima toscana, l'anima etrusca. E a questo proposito mi piace di fare mio il pensiero di Werner Keller, autore intelligente dell'opera La civiltà etrusca, il quale scrive come essa non fu mai spenta, ma risbocciò nel nostro rinascimento così come i freschi polloni di una pianta che noi crediamo seccata resuscita con vigore e trasmette a nuovi germogli un messaggio non spento per sempre, ma solamente sopito. Quest'uomo eccezionale che ebbe un peso così determinante per la storia, quest'uomo che incoraggiò, protesse l'arte e raccolse tesori inestimabili, fu una di quelle creature destinate a dare un'impronta ad un'epoca, perché oltre alla lungimiranza politica che gli consentì di guidare le sorti di Firenze ed anche della penisola, rispettandone le istituzioni con raro equilibrio ed evitando l'intrusione degli stranieri, ebbe anche in dono dalla sorte la magica scintilla della poesia. Se oggi la nostra città possiede tesori inestimabili, ciò si deve a quella famiglia venuta dal Mugello, quel Mugello che ha dato al paese geni immortali come Giotto e il Beato Angelico, e fra tutti i medici che si distinsero, egli fu certo il più grande. Purtroppo quest'uomo, nato in un secolo splendido e dotato di altissimo talento, ebbe una salute malferma e una vita breve. Dire Lorenzo il Magnifico è dire la Firenze del 400. Parlare della corte della quale il Magnifico si circondò, corte che gli tenne nelle sue dimore, aperte ai più illuminati ingegni del suo tempo, è come mostrare una collezione di diamanti, architetti, umanisti, pittori, scultori, filosofi che si nomavano Pico della Mirandola, Leon Battista Alberti, Michelangelo, Leonardo, Ugolino Verino, Giovanni Argiropulo, un greco illustre profugo da Bisanzio, il Verrocchio, Vespasiano da Bisticci, e si potrebbe continuare. Veri personaggi da fiaba che si muovevano in un mondo creato per loro e da loro. Lorenzo fu anche poeta finissimo e ci ha lasciato sonetti, poemetti, canti carnascialeschi, inni religiosi. Poiché la madre, Lucrezia Tornabuoni o Tornaquinci, poiché due secoli prima la sua casata così si nomava, dette ai figli un'educazione artistica e religiosa, affidando i ragazzi a gentile Becchi da Urbino, che fu poi vescovo di Arezzo, e a più illuminati ingegni del tempo. Nel bel palazzo di Michelozzo in Via Larga si riunivano questi alti ingegni, si dissertava di poesia, di religione, di filosofia. Belli quei palazzi, e tornando a parlare di questi, dico che furono costruiti con la pietra serena del Monte Ceceri, sulla destra di Fiesole, il monte dal quale Leonardo sognò di gettarsi col suo grande uccello che doveva di lì spiccare il volo. Una pietra che quando è in cava ha il riflesso azzurro dell'umo di luna e che quando è posta sulle facciate dei palazzi e delle chiese assume il bel colore caldo del sole. Con questa pietra i fiorentini edificarono le loro case. Firenze del Medioevo era una selva di torri. Le strade erano strette e pittoresche come quelle di Siena, ma ahimè, ben poco è rimasto della città medievale, cancellata dalle nuove esigenze e molto dalla presunzione degli uomini che credono di saper fare meglio dei loro predecessori. E molto spesso da rinnovatori si mutano in vandali e in assassini del bello. L'ultimo grande scempio avvenne per il rinnovamento eseguito al tempo di Firenze Capitale, dove con la distruzione del ghetto furono distrutti tanti capolavori architettonici per creare poi quel mediocre centro cittadino, piazza della Repubblica e strade limitrofe. La città ha così perduto il suo vero aspetto medievale. Come si può, in breve tempo, dire tutto quello che riguarda la mia città? Per abbracciarla tutta con gli occhi bisogna salire al piazzale Michelangelo. Di lì poi salire ancora più in alto e fermarsi nella piazzola antistante la chiesa di San Miniato al Monte, la stupenda chiesa romanica, una delle più antiche del mondo cristiano, dalla facciata semplice ed armoniosa, grande di una grandiosità semplice. La facciata di marmo bianco e scurissimo col soltanto un po' d'oro verso la cuspide e di lassù la gigantesca cupola del Brunelleschi, il campanile di Giotto, quelli di Badia, di Santa Croce e di Santa Maria Novella, la torre del Bargello di Palazzo Vecchio, la cupola di San Lorenzo si levano verso il cielo come mani in preghiera e sembrano carezzare l'azzurro. E tutto intorno colline dolcissime dove regna l'ulivo e il cipresso. Entrate nella chiesa e vi sentirete vicini a Dio, tutto là dentro parla di lui, vi è la maestà delle cose create per suo volere divino. Per le strade, un viavai festoso di turisti in estasi davanti a monumenti, a negozi. Quante cose belle da ammirare, c'è da perdere la testa, d'invoglia di comprare tutto e di portarsi via più ricordi che si può, oggetti che il nostro artigianato crea ancora, paglie, cuoi, argenti, ferri battuti, oreficeria, un artigianato che è il nostro orgoglio e che non deve cedere alla macchina. Il buon Dio ci ha dato le mani, questi arti preziosi formati per il lavoro, capaci di miracoli di bellezza, mani fatte per giungersi in preghiera e per dare un'impronta unica e personale al lavoro, frutto di ingegno e di operosità. Non è possibile camminare speditamente per le vie fiorentine, bisogna ogni tanto fermarsi, levare il capo verso l'alto e contemplare facciate di chiese, di palazze, campanili e torri. In piazza del Duomo, di fronte alla cattedrale e sul lato destro del bel San Giovanni, dove sono stati battezzati quasi tutti i fiorentini, vi è una colonna. Colonna che fu eretta per ricordare il miracolo di San Zanobi, il santo vescovo della città che fece un miracolo subito dopo la sua morte. Dove ora la colonna sorgeva un albero che era da diverso tempo seccato. Il santo vescovo era morto e lo si portava per le esequie nella cattedrale. Il feretro sfiorò appena il tronco secco. Si era in inverno. Subito la pianta mise le foglie e i fiori. Fu eretta la colonna al ricordo di questo prodigio. Oggi è come sperduta e spaurita dal fragore e il traffico della vita moderna, ma serve ancora a ricordare il santo che nei remoti primordi del cristianesimo combatté in Oriente contro l'eresia. Insieme a lui rammentiamo con reverenza il vescovo Sant'Antonino, il di cui corpo si venera nella chiesa di San Marco, vissuto in pieno rinascimento, santo, umanista, fondatore della prima biblioteca pubblica, incoraggiò e protesse la pittura del Beato Angelico, il fraticello domenicano che ci ha lasciato capolavori che sembrano più appartenere al cielo che alla terra e che lasciano ammirati e commossi i tanti visitatori che nel Museo di San Marco, nella piazza omonima, si recano a rendere omaggio a quella pittura degna del paradiso. E il nostro ricordo va a San Filippo Neri, sacerdote, nato nel 1515 e morto nel 1595, benemerito dell'educazione dei fanciulli, il santo della bontà, che fin da bimbo nel quartiere di Santo Spirito di Laddarno le mamme fiorentine additavano con l'affettuoso nomignolo di Pippo Buono. Filippo Neri, sulle cui orme luminose si modellarono i Cottolengo, i San Giovanni Bosco, Don Orione, Don Facibeni e i Don Geno del secolo nostro. Firenze è giustamente orgogliosa di aver dato i natali a queste creature di luce che tanto bene fecero all'umanità dolente e bisognosa. E fra tutti i doni divini, quello dell'amore verso il prossimo è il più grande, è il dono che più ci avvicina a Dio. Ecco, siamo nel cuore della città, di fronte al giglio di pietra, come Ugolini in Firenze Viva ha denominato la Torre d'Ornolfo, la torre dove sventolò la bandiera gigliata di Michele di Lando il Ciompo, i gigli di Francia, di Gualtieri di Brienne e di Carlo VIII, la bandiera imperiale di Carlo V, l'aquila bicipite dei Lorena, le insegne dell'effimero regno d'Etruria, i colori napoleonici di Elisa Baciocchi. Nel volume Firenze Viva così è scritto a proposito di questa piazza: qui dovrebbe sorgere e vagare l'ombra sdegnosa di Farinata degli Uberti. Al tempo di Dante non v'era piazza, ma qui stavano ferrigne come i loro uomini le case e le torri degli Uberti, nemici a Guelfi e agli Alighieri. Farinata che difese Fiorenza a viso aperto come dice Dante, la salvò dalla distruzione estrema dopo la vittoria dei Ghibellini, ma i vincitori non apprese ben quell'arte della moderazione e tolsero via le case degli Uberti e degli Abati, radendole al suolo, e su quella rovina sorse la grande piazza. Arnolfo murò la prima pietra sopra le macerie quasi ancora fumanti del palagio di Farinata e nacque la più bella piazza del mondo. Da una raffica d'odio sorse il più commovente monumento di amore che un popolo abbia mai potuto lasciare di se stesso. La storia di Firenze ha purtroppo una triste eredità di sangue da far dimenticare, e la sua espiazione è stato il miracolo dell'arte. Espiazione e purificazione, sebbene non si comprenda come in questa valle fiorita, in questa luce di sole, in questa trasparenza di cieli, in questa mitezza di olivi, si sia potuto tanto odiare per quella misera e impura cosa che gli uomini chiamano politica. In Piazza della Signoria non si può che amare. Il giglio di pietra, come io chiamo la torre di Arnolfo, è la più sublime preghiera che gli uomini abbiano innalzato a Dio. Entrate in Palazzo Vecchio per ammirare gli appartamenti che ospitarono Cosimo I, Granduca. Visitate il Salone del Cinquecento, il tesoretto di Francesco I, il quartiere di Leonora e di Leone X. Salite sulla torre e scorgerete di lassù una Firenze nuova. Tutto quello che si vede è magico. Siamo nel cuore della città e ne abbiamo una visione che non si può immaginare. Quanta storia è passata di qui. La piazza fu testimone nei secoli di fatti che lasciarono un'impronta incancellabile. Qui furono giustiziati i responsabili della sacrilega congiura dei pazzi, dove perse la vita l'amato fratello di Lorenzo il Magnifico, Giuliano. Qui, il 23 maggio del 1498, la stupenda piazza vide il rogo sul quale perirono tre creature giuste, fra Girolamo Savonarola, fra Silvestro Maruffi e fra Domenico Buonvicini. Fra Girolamo, colpevole di verità dette ai potenti, e gli altri due suoi fedeli discepoli, anime luminose, fiaccole ardenti di fede, combattenti nel nome di Cristo. La porta dei cieli si spalancò dinanzi alle loro anime immacolate, pecorelle di Dio, immensamente amate dal loro pastore. Ogni anno, il 23 di maggio, mani pietose cospargono la lapide che ricorda il martirio con un fascio di rose. Quante cose potrebbe raccontarci la piazza? Essa vide la prigionia di Cosimo il Vecchio, vide i festeggiamenti di Lorenzo il Magnifico, i calendi di maggio fioriti, il tumulto dei ciompi, vide i cortei di Carlo V, di Leone X e di Clemente VII, i papi della famiglia Medici. Nel Museo degli Uffizi, che da lì quasi si diparte, passando sopra i piccoli archi degli archibusieri e sopra le botteghe degli orafi sul Ponte Vecchio, con una galleria interna, opera del Vasari, si può raggiungere la Galleria Pitti. Dietro Palazzo Pitti, il Giardino di Boboli, giardino incantato, ma che oggi è più trascurato che per il passato. Quante cose da vedere e da amare in questa città di mercanti, banchieri ed artisti. Pensate che anche il melodramma è nato qui, la famosa Camerata dei Bardi, della quale faceva parte Vincenzo Galilei, padre di Galileo. In via di Casri vi è la Galleria dell'Accademia, dove il Davide di Michelangelo impersona la forza e la gioventù dell'eroe biblico, statua che Michelangelo scolpì all'età di 28 anni. E vi sono i prigioni che dovevano adornare la tomba di Papa Giulio II, la quale non fu mai terminata. Se il Davide colpisce per la sua grazia, i prigioni, anche se incompiuti, e forse proprio per questo, ci mostrano il genio immenso di Michelangelo. È la vita stessa che si sviluppa dalla materia. Sono titani che lottano per la loro libertà. se la vista del Davide illumina e solleva, quella dei prigioni sbigottisce. Non si può lasciare Firenze senza averli veduti. E insieme all'arte mille curiosità da ammirare. Il mercatino di San Lorenzo, con le sue bancarelle, dove ognuno parla inglese e dove vengono compresi anche i giapponesi, i finlandesi, i popoli che parlano le lingue più difficili. Ma se si capisce a volo, ormai i fiorentini si sono abituati a questi compratori internazionali con i quali stabiliscono rapporti anche di amicizia. Quelli, ritornando ogni anno, vanno allo stesso banco. I venditori poi in inverno si recano negli Stati Uniti e vanno a fare una visita ai loro compratori. E vi è il mercato delle paglie sotto le logge del Porcellino, che poi è un cinghiale di bronzo, non è un porcellino, copia di Pietro Tacca da un originale greco di marmo che è nella Galleria degli Uffizi, ma ora mi sembra Picchi. Prima qui si vendevano soltanto paglie, borse, cappelli, scarpette, mentre ora si vende di tutto. In Firenze Viva così è descritto. Immaginate un arruffio di trine, di merletti, di tovaglie ricamate, di cenzi da tavola, piegati, esposti, sciorinati, appesi in alto, pendenti e svolazzanti come stendardi, e accanto un oro strano come pennellate di sole. Sono le paglie di Firenze e di Fiesole, che da secoli sono celebri. Tant'è vero che appena le misses americane o le lady inglesi vengono a Firenze, la prima cosa che fanno è di correre sotto le logge a comprarsi una pamela, ossia un bel cappellone di paglia di Firenze, come quelli che una volta portavano le contadine, e di cacciarsela in capo. Non importa se faccia freddo o vi sia un pallido sole di marzo, a Firenze deve far caldo per onor di latitudine, e il sole fiorentino deve essere capace di marzo di giocare anche degli scherzi. E così le belle visitatrici di Firenze girano allegramente per la città con i loro cappelloni ingozzati, credendo di portare un vero cappello all'italiana, e senza menomamente accorgersi non solo che nessun italiano lo porta, ma che qui quasi lo si ritiene comico il portarlo. E tornando al mercato di San Lorenzo, forte il contrasto con la bellissima chiesa e le cappelle medicee, dove si ammirano i capolavori di Michelangelo, la notte, il giorno, l'alba, con tutta quella gente che va lì per comprare sui banchi e negli sdruccioli. Gli sdruccioli sono un'istituzione puramente fiorentina, sono botteghine sotterranee dove bisogna fare attenzione per scendervi, perché c'è una scaletta così ripida che c'è da sdrucciolare. Bisogna andare giù con cautela, ma il venditore è sempre così gentile da offrire il braccio e la mano. Negli sdruccioli si trovano scarpe impermeabili, stivaloni, giacche sportive, scarpe da cacciatori, da sciatori, scarpini per il ballo, zoccoli, grembiali, insomma tutto. E che gite da compiere! Fiesole, le cascine, dove prima si andava in carrozza e le signore si facevano ammirare nelle loro belle vesti coi grandi cappelloni guarniti di fiocchi e d'ali d'uccello, dove si potevano incontrare Ugo Foscolo o Vittorio Alfieri o la bella contessa di Albany o la contessa di Castiglione, figurine con ombrellino da sole e crinoline e fichu. È bello passeggiare sul Lungarno, camminare dal torrione della Zecca fino al piazzale degli Zuavi, una lunga passeggiata che ha sulla destra i palazzi, di fronte le colline del Viale dei Colli, di Bello Sguardo, di Monte Oliveto. Aspettare l'ora del tramonto, quando il cielo diviene rosso fuoco e l'acqua del fiume rimanda quel colore, e il cielo è pieno dei voli dei colombi ed ora anche dei gabbiani, che sempre più rumorosi dimorano nelle città. E i ponti sembrano braccialetti gettati tra le due sponde. E a Firenze vi sono feste che durano da secoli, come lo scoppio del carro, che risale alla seconda crociata, dalla quale un pazzino dei pazzi, si chiamava così, portò in patria alcuni pezzi di pietra tolti alla struttura del Santo Sepolcro. Era questa una silice durissima, una pietra focaia, la quale, se percossa da un pezzo d'acciaio, sprigionava scintille. E da queste scintille nacque l'idea di un focolo sacro da accendersi la mattina del Sabato Santo. Ora però lo fanno la mattina di Pasqua. Nacque così il carro, alto 5 o 6 metri, che da fiorentini venne chiamato scherzosamente brindellone. Trainato da 2 paia di candidi di buoi tutti infiocchettati e che una volta all'anno esce dalla sua rimessa, va a prendere posto tra il battistero e la facciata del Duomo. Una corda metallica è tesa tra il carro e l'altar maggiore. La colombina, che è un fuoco artificiale a forma di colomba, dovrà scivolarci sopra, accendere i fuochi del carro e quindi far ritorno rapidamente in chiesa. All'istante glorioso il sacerdote, col cielo acceso alla sacra scintilla, mette fuoco alla miccia della colombina, che subito parte in una scia dorata di faville lungo la corda tesa. Scoppi fragorosi, è un vero fuoco di gloria, un fragore gaio e al tempo stesso impressionante, riempie la piazza in un volo di colombi spauriti mentre le campane suonano a distesa. Andate a vederlo. E un'altra festa, proprio tutta fiorentina, è la festa del grillo, che si svolge nel giorno dell'Ascensione. È una festa per tutti, fuorché per il grillo, il quale viene qualche giorno prima tirato fuori dal foro dove viveva felice, in attesa di poter riempire i prati del suo canto. Viene poi messo in una gabbietta come se fosse un canarino e venduto. Povero grillo, la sua sorte non è delle più felici. Ma quel giorno, che festa alle cascine! Grida festose di bimbi, bancarelle che vendono di tutto, un viavai di macchine, di biciclette, di carri mascherati, insomma una vera kermesse, una specie di festa di Calen di maggio, con tanto un rumore in più di quanto non ve ne fosse al tempo del Magnifico. Nel periodo della Quaresima vi sono le fiere nei diversi quartieri della città e a questi fiorentini hanno dato un nome. C'è la fiera dei curiosi, quella dei furiosi, degli innamorati, dei contratti e quella dei rifiniti, che è l'ultima e che forse si chiama così perché la gente, a furia di spendere nelle altre fiere, è proprio alla fine dei suoi soldi. Per l'8 settembre la festa della Madonna vi è quella delle rificolone. La rificolone sono una specie di lampioncini alla veneziana di carta colorata e dalle forme più varie. Dentro c'è il posto per una candelina accesa. Il lampioncino si appende ad una canna e lo si porta in giro per la città. E così si vedono queste lucciole che vagano di qua e di là, mentre i ragazzi dicono: «Ona, ona, ona, ma che bella rificolona!» E in anno, per quell'occasione, vengono allestiti corsi di barche illuminate. Insomma, è una tradizione antica che co tempi moderni si è maggiormente arricchita. Il santo patrono di Firenze è San Giovanni Battista e il 24 giugno Firenze onora il suo santo con varie manifestazioni che si concludono con lo spettacolo pirotecnico che si svolge al piazzale Michelangelo. I fiorentini corrono in massa sul Lungarno per assistere ai fuochi di San Giovanni. Si fanno ogni anno da tanto, ma è sempre come se fosse la prima volta. Con questa mia breve conversazione spero che io sia riuscita a farvi un pallido ritratto di Firenze. Dico pallido perché per conoscerla tutta bisognerebbe fermarsi qui almeno 2 mesi. Ci sono tanti musei, tante chiese, palazzi, collezioni e i dintorni poi, una gioia per gli occhi e per lo spirito, strade tra muri da quali traboccano gli olivi, scenari d'incanto che si aprono improvvisamente davanti ai vostri occhi. Vi auguro di tornare spesso qui e vi auguro tutto il bene del mondo. Per finire vi leggo una piccola descrizione di Ugolini, com'è Firenze dalla porta San Miniato, che è di là ad Arno, dove c'è la Via Crucis. Non so se l'avete fatta, la Via Crucis, che c'era al tempo di Dante. La vecchia porta San Miniato è larga e bassa. Al di dentro una massa di casupole si danno di spalla l'una contro l'altra. Al di fuori di colpo la città sparisce. Olivi, viti, case coloniche, cipressi, siepi fiorite. Non c'è trapasso. Nelle città moderne per trovare la campagna bisogna marciare un'eternità. Qui no. Dall'angustia di strade strette, tipicamente medievali e popolari, con poca aria e poca luce, d'un tratto siamo fuori, liberi, come un prigioniero che, rotte le sbarre di una finestrola, si trovi nell'immensità dello spazio. Le colline vengono a morire come un'ondata contro le vecchie mura della terza cerchia. I rami degli olivi battono contro i bastioni. Un passo ed ecco le viti cariche d'uva se siamo in settembre. Ecco i mandorli fioriti come una nuvola se siamo in febbraio. Ecco il rosa dei peschi e il l'avorio dei meli se siamo di marzo e d'aprile. Vien voglia di gridare. E subito dal selciato piano e monotono della città la collina, senza passaggi, si varca la soglia e si sale di petto con l'ansia di dare un assalto. Qui non sobborghi, non case nuove, non viali né villini, né casoni cooperativi né grattacieli. Qui un taglio secco, di qua città, di là campagna. E nemmeno città moderna, ma puro medioevo. Dal 300 si passa una porta e siamo fra gli olivi, tra le viti, tra i contadini. Una breve rampa fra poche case ed ecco la via di allora. Non è mutata. Si sente, si vede, era così anche allora. Allora quando? Il babbo è fermo al solito posto, sotto la lapide murata, là dove cominciano i primi cipressi e dove c'è la prima croce. Una strada che ha tanti nomi, molti fiorentini non sanno quello vero. I più dicono il Monte alle Croci, altri la via di San Miniato, altri ancora San Salvatore a monte, io dico semplicemente per salire al monte. E così cominciano i versi delle terzine dantesche colpite sulla lapide. Per salire al monte dove siede la chiesa che soggioga la ben guidata sopra il Rubaconte. Si rompe del montar l'ardita foga per le scalee che si ferro ad etade, che era sicuro il quaderno e la doga. La via è rimasta così, c'erano allora le scalee, ci sono ora le scalee, c'erano i cipressi, c'erano le croci, ci sono i cipressi, ci sono le croci. E vi saliva Dante. Dante è nell'aria a Firenze, ma se si vuol sentire la presenza, bisogna venire qui. Lo vediamo grave, mansueto, alquanto curvetto e sempre nel viso malinconico e pensoso. Sale, sale come sempre salì nella sua vita, qui per salire al monte, nella selva selvaggia per un'erta dove il più fermo sempre era il più basso, nel purgatorio per scalee simili a queste, nel paradiso per la via dei cieli, sulla terra salì penosamente e discese per l'altrui scala. Con questo ricordo di Dante io termino questa mia conversazione. Spero di non avervi annoiato. Vi auguro tutto il bene possibile e di rivedervi in un futuro abbastanza vicino. Davvero, è piaciuta, bella. La chiedere lo chiedete adesso, ora qualcuno ci chiede, però... a volte ho fatto delle papere, leggo un po' svelta. E non vi ho parlato, per esempio, della chiesa di Or San Michele, dove ci sono le squadre, le statue di Donatello, dell'Orcagna nelle nicchie, e furono donate dalle corporazioni, dagli artigiani fiorentini che commissionarono a questi grandi artigiani, perché lavoravano con le mani, perché si sentivano artigiani e basta, quei grandi capolavori che voi vedete. E poi non vi ho parlato di Santa Maria Novella, dove stanno gli affreschi del ghirlandaio, non vi ho parlato di Santa Trinita, dove c'è ancora il ghirlandaio, potete vedere parte della famiglia Medici riprodotta. Non vi ho parlato di Santa Croce, dove sono sepolti tutti i grandi italiani. Non c'è Dante e Ravenna non ce lo può dare e fa bene. Io sono del parere che fa bene a tenerselo, perché fu trattato male qui e è giusto che Ravenna, che lo accolse, se lo tenga. Qualche fiorentino forse ce l'ha con me perché dico questo, eh? Ma signor Lazzari, quando abbiamo dei grandi figli non bisogna essere matrigne, bisogna essere madri. E poi non vi ho parlato, non so, dei dintorni, c'è Settignano, dove c'è la piazza che ha fatto un monumento a Mino, il grande scultore, e non vi ho parlato di tante di quelle cose, ma come faccio? Vi addormentereste dopo, direste quella signora è una barba quella signora. Volete sapere qualcosa di Firenze? Firenze è un popolo strano, è grande e ha come simbolo Dante e Stenterello, è un popolo arguto, è un popolo fazioso, a volte anche beceretto, ma questo fa parte della fiorentinità. Siamo così noi, siamo un misto di bello, di brutto, di grande. Di brutto non direi, perché chi viene qua ci ritorna e ci vuole bene. Ho una sorella sposata negli Stati Uniti, quando lei dice che è fiorentina la guardano come un oracolo. Tutta l'Italia è grande, tutta l'Italia è bella. Io ogni volta che visito anche un minuscolo paesino che esce fuori dalle grandi vie turistiche, io grido di gioia, perché tutto è bello. Siamo un popolo forte, via, diciamolo, non per campanilismo. Nessuno mi racconta, non so per niente di Firenze, neppure di Dante, di Beatrice, non so. E quando Dante incontrò Beatrice era come loro. Lei aveva una ghirlandetta di rose qui, la vide a una festa e questo bambino ne rimase incantato, tanto da immortalarla nella Divina Commedia. E l'altro giorno io ho fatto una conferenza su Lorenzo il Magnifico e ho parlato dei sonetti che lui dedicava a queste gentildonne, e c'era molta gentilezza, molto rispetto, molto amore. Devo dire che proprio era una finezza tale che io ne sono rimasta incantata. Ecco, verrò a battervi le mani al Campo di Marte, sabato e domenica. E tutti i miei auguri sono per voi, ragazzi, che abbiate una vita felice e serena, che possiate avere tutto quello che desiderate. Va bene? Ora questo lo mando in America. Va in America questo. Questo nastro ora va in America.